Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti all'appuntamento con Magazine 24, sfogliamo i periodici italiani e stranieri per segnalarvi qualcosa di interessante, qualcosa da leggere, qualche notizia curiosa. Questa mattina lo facciamo con Mauro De Angeli in regia. Ho trovato sull'Espresso un'intervista che può interessare magari chi come me non è più giovanissimo, ma chissà, magari anche i più giovani. Intervista appunto di Federico Scoppio a Paul McCartney. Paul McCartney, se ci fosse qualcuno che non lo sa, il bassista dei Beatles, e poi naturalmente cantante, compositore anche improprio da quando la band si sciolse. L'intervista naturalmente contiene diversi spunti curiosi, molto anche di retro, cioè di vicende appunto riferite ai Beatles, e divertente una delle prime frasi appunto di McCartney che vengono riportate nell'intervista, che è sull'Espresso. Vuole sapere, dice McCartney al suo intervistatore, il vero motivo per cui John Lennon e io iniziamo a scrivere canzoni, chiede un Paul McCartney affabile e rilassato, perché durante uno dei primi concerti che tenevamo insieme ci ritrovammo nei camerini senza niente da suonare, perché la band che si era esibita prima di noi aveva appena interpretato tutte le canzoni che avremmo voluto fare noi quella sera. Meno male che questo è successo, verrebbe da dire, perché appunto da lì cominciò la carriera di autori, di incredibilmente fortunati autori, appunto Lennon, McCartney, e quindi è stato davvero un bene che questa band gli abbia rubato tutto il repertorio in anticipo. McCartney ha appena compiuto 69 anni, ricorda Federico Scoppio nella sua intervista. Spiega anche che è in una forma fisica invidiabile, lui stesso dice che si allena molto, che la cosa non gli pesa e quindi si mantiene in grande forma. Gli chiedono anche un altro particolare, si dice che all'inizio, è la domanda, quando le chiesero di diventare il bassista dei Beatles, lei non voleva saperne di accettare quel ruolo. È vero? E McCartney lo conferma, sì è vero, è successo nel 1961 ad Amburgo. Il nostro bassista di allora, Stuart Sutcliffe, perde la testa per una ragazza, ricordo ancora il suo nome, si chiamava Astrid, e decide di mollare tutto quanto. Stabilisce che da quel momento la musica non fa più parte della sua vita, vuole solo far l'amore e dipingere, due attività nobili ma poco remunerative. Comunque contento lui, per com'era la musica allora, spiega McCartney, il ruolo del bassista corrispondeva a quello dello sfigato del gruppo, quello timido, un po' goffo, che sta in un angolo del palco al buio. Ecco, io non volevo affatto entrare in quella parte, poi ho finito per accettare. Tutto sommato, ho ridato dignità a un ruolo che tutti consideravano minore e defilato. Allora, da un bassista molto famoso a un altro bassista, grandissimo bassista, che è Charles Mingus. Charlie Mingus è la proposta di questa settimana per i miti del jazz. Quello che abbiamo appena ascoltato è l'inizio di Peggy's Blue Skylight. Il CD è in vendita con Il Sole 24 Ore, contiene anche, come sempre per tutta questa collana, un racconto della vita di Charlie Mingus e anche di alcune sue frasi importanti, alcune sue convinzioni appunto importanti in materia musicale. Magari, se Mauro sei ancora pronto, facciamo risentire qualche cosa ancora di Peggy's Blue Skylight. E allora cambiamo completamente argomento, restiamo in Italia, spostiamoci in Italia, meglio parliamo dei deliri della burocrazia. C'è un titolo davvero curioso che è stato dato a un articolo di Luca Antonini questa settimana su Panorama. Il titolo è Prust, PTPC, PUTT, PRU. Benvenuti nel labirinto delle sigle che regolano, si fa per dire, l'edilizia. Ecco, queste sigle qua, per quanto strano vi possa sembrare, sono tutte esistenti e regolarmente in uso e dovrebbero appunto regolare l'edilizia. In realtà l'elenco è un po' più lungo di come lo fa il titolo, perché oltre a Prust, che non c'entra niente con lo scrittore, è proprio scritto PRUSST, e a PTPC eccetera, c'è anche la sigla PUC, PIP, cioè PEEP, PIP e poi anche PP, dice, scrive Antonini, questo non è il rumore dei fuochi d'artificio, questo è uno scoppio molto meno entusiasmante, quello della burocrazia che è esplosa da tempo nel nostro paese ed è poi deflagrata con l'avvento della riforma del titolo V della Costituzione. Invece di un federalismo di semplificazione, come era lecito attendersi, la riforma ha spesso portato a un federalismo di complicazione, con una moltiplicazione degli strumenti, degli adempimenti, dei moduli, dei piani, delle procedure. E questi rumori, così appunto definisce lui le sigle, questi rumori d'apertura sono solo una piccola parte degli acronimi statali, regionali, provinciali, comunali, che ormai caratterizzano il settore edilizio. Ad esempio il Prust, appunto che non ha nulla a che spartire con Marcel Proust, è il programma di riqualificazione urbana e lo sviluppo sostenibile del territorio. Poi c'è il PTPC, che è il piano territoriale coordinamento provinciale. Poi c'è il PUT, con due T, che è il piano urbanistico territoriale tematico, e poi c'è il programma triennale per la tutela ambientale, il piano urbanistico comunale, che in sigla fa PUC, e poi il piano per l'edilizia economica popolare e tanti altri piani ancora. Il pianificio lo chiama Luca Antonini. In questo contesto dice anche idee innovative come il piano casa faticano poi a decollare. Ci sono linee di fondo del sistema che risultano ormai obsolete, stratificate e ideologiche. E così dice, finiamo al 70° posto in termini di libertà di impresa. Per avviare un'officina ci vogliono 76 adempimenti in 18 uffici. Per avviare una lavanderia ce ne vogliono 68 in 20 uffici. C'è anche un'immagine appunto che riporta tutte queste varie sigle, tra l'altro appunto ci sarebbe pure PTRG, CTRU e così via, e il gioco con queste sigle è spesso assolutamente incomprensibile e qualche volta probabilmente è incomprensibile anche la loro reale utilità, bene, potrebbe continuare a lungo, ma noi invece cambiamo completamente argomento. E cambiamo completamente argomento per passare a una lettera che è stata inviata a Famiglia Cristiana e su Famiglia Cristiana pubblicata. Qualche volta dalle lettere dei settimanali, dalla lettera ai magazine, si ricavano degli spunti anche più ricchi forse di quelli che potrebbero venire dalle inchieste, e forse il caso di Alberto, che appunto ha scritto Famiglia Cristiana, ci dà qualche motivo di riflessione. Questo signore si descrive così: sono un pensionato di 66 anni, moglie, due figli a carico di 22-24 anni. Nella vita mi considero fortunato, ringrazio Dio per la salute e la famiglia, ma anche per una sufficiente tranquillità economica. Ho una pensione di circa 3.500 euro lordi al mese. Ottimo, si dirà, e così sembrerebbe anche a me. In effetti, secondo le statistiche sui redditi degli italiani, mi ritrovo tra i benestanti, se non addirittura tra i ricchi, perché la maggioranza dei contribuenti dichiara redditi inferiori. Quindi 3.500 euro lordi, ripetiamo, al mese sembrerebbero una cifra di tutto rispetto con la quale vivere. Però poi il signor Alberto prova a declinare, a mettere in fila un po' tutte le sue spese e si accorge che in questo momento, dovendo mantenere le figlie agli studi, ovviamente finendo di pagare un mutuo, eccetera, eccetera, eccetera, beh, in questo momento le sue uscite superano le entrate. Dove ci porta questa considerazione? Ci porta a quello che poi è la risposta di Antonio Sciortino, del direttore, a questo lettore, cioè la scomparsa del ceto medio. Ecco, la scomparsa del ceto medio è un tema di cui si occupano da tempo, specialmente dopo la crisi del 2008, gli economisti, si occupano anche i sociologi, forse però questa lettera la descrive meglio di qualsiasi statistica possibile. 3.600 euro lordi sono una cifra di tutto rispetto, però in questo momento non sono sufficienti a garantire la tranquillità economica, il fatto appunto di poter almeno chiudere i conti in pareggio, se non addirittura in attivo, a un signore che ha moglie e due figlie a carico. E questo poi rincara un po' la dose Sciortino dicendo: stiamo scivolando verso situazioni da paesi del sud del mondo, dove la ricchezza si concentra in poche mani e gli altri stentano a vivere, se non a sopravvivere. In Italia, dai dati più recenti, risulta che il 10% della popolazione possiede quasi il 50% della ricchezza nazionale. E questo è la scomparsa del ceto medio raccontata, come dire, dall'interno, raccontata da uno dei suoi testimoni su Famiglia Cristiana di questa settimana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi ho segnalato una lettera a Famiglia Cristiana. Vorrei restare su Famiglia Cristiana per un argomento che in realtà sta un po' dappertutto nei settimanali questa settimana, e si tratta del gioco online. Molti settimanali si sono, diciamo così, scaldati su questa liberalizzazione del gioco online che è stata disposta con uno degli ultimi interventi legislativi della manovra. Se ne occupano a vario titolo, ad esempio su Vanity Fair c'è un sondaggio, uno dei sondaggi di Pagnoncelli affidato proprio all'accoglienza che gli italiani stanno riservando, riserveranno a questa estensione del gioco online. Ci sono le considerazioni di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, proprio su questa estensione del gioco online, e lui dice: questa è una mossa azzardata, quella di liberalizzare il gioco online, primo perché rischia di diventare una tassa sulla povertà, cioè sulle illusioni di chi nel gioco cerca una strada per uscire dalle difficoltà economiche, e poi perché alimenta una contraddizione. Da un lato il governo afferma di voler combattere le dipendenze, dall'altro agevola un fenomeno che la dipendenza in molte persone la crea, con costi umani e sociali che certo superano i guadagni in termini monetari. Ma c'è dell'altro, avverte Don Ciotti: l'azzardo sta diventando una delle nuove frontiere del crimine organizzato, lo dice una recente relazione della Commissione Antimafia che rivela dati allarmanti. Le mafie intascano più di 1 miliardo l'anno dalle scommesse, 10 miliardi dai videopoker. Somme che non derivano solo dalle attività illecite, ma anche dall'infiltrazione nei circuiti legali. Con più di 61 miliardi giocati nel 2010, l'Italia è fra i primi 5 paesi al mondo per volume di gioco ed è il primo in Europa. Ecco, possiamo addirittura integrare queste informazioni che dà Don Ciotti su Famiglia Cristiana con dei dati che sono stati diffusi proprio nei giorni scorsi, proprio pochissimi giorni fa. Si stima, secondo AgiProNews, che è un'agenzia stampa che si occupa proprio di questo tipo di dati, che la raccolta complessiva dei giochi potrebbe superare a fine anno i 71 miliardi. Erano già stati parecchi, cioè nell'anno scorso 61,5 miliardi nel 2010, ma se proseguiamo, diciamo, se andiamo avanti a giocare così come abbiamo fatto in questi primi 7 mesi ormai, bene, supereremo la quota dei 70 miliardi e quindi consolideremo anche il nostro primato europeo. Giochiamo sempre di più, ma almeno nei sondaggi invece non sembriamo così entusiasti dei giochi. Perché? Perché se prendiamo Vanity Fair, Nando Pagnoncelli è andato a chiedere a un campione che cosa pensasse della liberalizzazione del gioco d'azzardo, del gioco online, insomma. Scrive Pagnoncelli: via libera al poker cash, ai casinò online. In pratica, dal 18 luglio si potrà giocare d'azzardo su internet puntando soldi veri, non solo gettoni prepagati. Un buon sistema per rimpinguare le casse dello Stato, come è accaduto in Francia e negli Stati Uniti. Secondo le prime stime, infatti, lo Stato, attraverso i vari poker, blackjack e roulette, conta di raccogliere quasi 3 miliardi di euro l'anno. Ebbene, nonostante i numeri che vi segnalavo prima, cioè un successo crescente, gli italiani, almeno nei sondaggi, dicono che questa idea non gli piace. Secondo il 71% degli intervistati, lo Stato ottiene già abbastanza introiti da altri giochi. Inoltre il poker cash andrebbe a incentivare il gioco d'azzardo con il rischio di favorire la ludopatia. Ludopatia, cioè l'ossessione del gioco, dalle corse di cavalli ai casinò. Una piaga che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce già 1,5 milioni di italiani. La liberalizzazione dei giochi è invece giudicata positivamente da un intervistato su 5 per due motivi. Primo, perché è un'opportunità per dare ossigeno alle casse dello Stato, e secondo, perché comunque favorisce la regolamentazione di un mercato che potrebbe affrancarsi, almeno in parte, dal controllo delle organizzazioni criminali. Se per i casinò online ormai cosa fatta, la strada sembra invece tutta in salita, scrive sempre Pagnoncelli, per quelli tradizionali. Solo il 14% dei suoi intervistati sarebbe disposto a ospitarne uno nella propria città. La punta più elevata di persone favorevoli si registra tra i residenti nelle regioni del centro e del sud, che forse sono più sensibili anche al maggiore flusso turistico e ai posti di lavoro che si potrebbero generare. Queste le indicazioni che provengono dal sondaggio che trovate su Vanity Fair di questa settimana. E restiamo su Vanity Fair, ma per fare un tuffo un po' all'indietro. Penso che molti dei lettori non sappiano assolutamente chi sia Christiane F. Credo che molti non abbiano neppure sentito parlare del libro Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Però questo libro nel 1981, cioè 30 anni fa, ebbe un grandissimo successo. Era la storia di una tossicodipendente giovanissima, che aveva cominciato giovanissima e che però riusciva, attraverso notevoli vicissitudini, a liberarsi finalmente dalla sua dipendenza. Fu un libro che ebbe molto successo, fu anche in un certo senso molto utile per descrivere veramente quali erano i danni dell'uso delle droghe, in particolare dell'eroina, che era la protagonista di questo, la vera protagonista di questo libro. La protagonista reale, perché il tutto era basato su una vicenda reale, Christiane F. esiste realmente, è una persona che esiste ed è ancora viva, non se la passa benissimo, così riferisce appunto Vanity Fair. In realtà è riuscita sì a uscire dal giro della tossicodipendenza, ma poi per rientrarci, così appunto riferisce il settimanale, ha praticamente interrotto le sue relazioni normali e vive nei dintorni di una stazione di Berlino in cui si ritrovano abitualmente altri tossicodipendenti. Christiane, scrive sempre Vanity Fair, ha sempre parlato quasi con nostalgia di quegli anni allo zoo. I ragazzi, lo zoo di Berlino era appunto questo gruppo di ragazzi che si ritrovavano lì e che erano tossicodipendenti, come nelle prime pagine pubblicate online del libro che stava scrivendo e che dovrebbe chiamarsi Heroin Girl, dai marciapiedi alle stelle. Doveva essere il seguito del primo, ma nei primi 4 capitoli Christiane ha ancora 18 anni, vive nei dintorni dello zoo, c'è un 5° capitolo che ha solo il titolo e poi non c'è scritto più nient'altro. L'ultima traccia pubblica di Christiane F. è appunto quando è stata fermata a gennaio. Christiane F. è stata fermata dalla polizia in una retata per droga. E allora, dall'autrice protagonista di un libro fortunato 30 anni fa agli sfortunati, loro malgrado protagonisti, i Los 33 li avevamo chiamati, i minatori cileni rimasti intrappolati. Il venerdì è andato a curiosare che ne è di loro dopo qualche mese, e in realtà la fama sperata, la notorietà si è esaurita molto rapidamente. Vi ricordo appunto, come scrive Omero Ciai sul venerdì, che tra il 12 e il 13 ottobre dello scorso anno sono stati riportati finalmente in superficie con questa capsula, questo ascensore molto particolare. Il mondo intero ha seguito, c'era più di 1 miliardo di persone che stava seguendo questa vicenda nelle televisioni. Hanno trascorso quasi 70 giorni nelle gallerie della miniera di San José, stavano a 700 metri sottoterra. 33 minatori, ce lo ricordiamo molto bene, lo abbiamo tutti seguito seguito con il fiato sospeso. Avevano chiaro almeno due cose in quella notte tra il 12 e il 13 ottobre, scrive Omero Chai, che non sarebbero mai più tornati a cercare il rame e che forse sarebbero anche diventati ricchi. Ricchi perché in quelle lunghe ore, appunto, oltre 1 miliardo di persone seguiva l'evento in diretta TV, c'erano giornalisti, cameraman, manager televisivi, c'erano promesse di contratti milionari e i network che si contendevano i diritti. Però, spente le luci sul reality, le cose sono andate un po' diversamente. Sono usciti alcuni instant book, ma sono andati in maluccio. Il vero show business, poi, cioè quello di Hollywood, ha voltato le spalle ai 33. C'era l'interesse di Brad Pitt, che però, riferisce Chai, ci ha pensato su, alla fine ha lasciato perdere, quindi niente film, niente vicenda dei 33 in un film. Un'altra casa di produzione USA ha sì versato un anticipo per i diritti, ma poi il progetto è rimasto in alto mare. Quindi fama tanta, dollari pochini. E allora il prossimo 5 agosto, ci siamo vicini, si compie un anno dall'inizio della loro odissea, l'odissea dell'Atacama, ma per i sogni dei 33 sopravvissuti, scrive appunto Chai, il bilancio è magro. Qualche soddisfazione se la sono tolta, però nessuno li ha ricoperti d'oro. Sicuramente hanno viaggiato molto, almeno all'inizio, perché sono stati invitati un po' ovunque. E allora, con questa citazione dal venerdì, si conclude la nostra puntata di oggi. Magazine 24, come sapete, ritorna ogni sabato e ogni domenica, ma saremo già in agosto nella nostra prossima puntata. Vi auguro anche di essere in vacanza, soprattutto. Ringrazio Mauro De Angeli questa mattina in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza per avermi aiutato a preparare questo programma, e se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Il nostro sito per qualsiasi cosa vogliate sapere di questa radio, della nostra radio, www.radio24.it. Buona domenica a tutti.